passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Quando la zanzarita tormenta la mia noche, passa en blanco. Mañana yo soy stanco como una muchachita. Baila col ritmo bueno, no le importa mucho si no prendo sueno. No le importa mucho si no prendo sueno. Eccoci qui con la Zanzara, 18:34, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Qualche voce di giornata prima di iniziare. E direi, a proposito della vicenda di Italia-Serbia, che ancora continua con le polemiche, con la Serbia che attacca l'Italia dicendo che c'è stata disorganizzazione allo stadio, Maroni, sulle critiche che qualche esponente dell'opposizione ha fatto al comportamento della polizia e conseguentemente anche al ministro degli interni, dice: ci rido sopra. Allora, quando si arrestano i mafiosi non è merito del ministro, ma è merito delle forze dell'ordine. Quando succedono incidenti non è colpa delle forze dell'ordine, ma è colpa del ministro. Io ho le spalle larghe, quindi ci faccio una risata sopra. Moglie di Lola, oddia. E poi ancora con questo rischio Aisel. Ecco, devo dirvi una cosa. Sostenere che tutto è filato liscio, tutto è andato bene, che non c'è stata nessuna sbavatura, che non si poteva fare di meglio, evocando l'Aisel, non è successo niente, non ci sono morti, io lo trovo veramente una cosa al limite tra il ridicolo e il penoso. Non lo so, cosa c'entra l'Aisel, evocare il rischio Aisel, via. Se fosse stata fatta la carica per consentire lo svolgimento della partita, sarebbe successo l'Aisel 2, quindi nessuna censura alle forze dell'ordine e men che meno all'operato complessivo dell'intelligence italiana. Purtroppo c'è stata una sottovalutazione o un'assenza di informazioni tempestive da parte dell'Interpol di Belgrado. E ultima cosa ancora sulla vicenda Italia-Serbia, da questa mattina credo a Omnibus, no, non so dove, in qualche altra trasmissione. Va bene, Bonaiuti, portavoce di Berlusconi, versus Penati, che è il braccio destro di Bersani, volevate il morto? Ciò che è avvenuto ieri è qualche cosa, caro Penati, che esula dalla normalità, e di fronte a persone di questa pericolosità ce ne siamo usciti senza neanche un ferito. Non vi va bene neanche questo? Che volevate? I morti, le stragi, le botte assolute, le sparatorie? Abbiamo evitato questo, abbiamo fatto bene. Adesso questa cosa non ti è consentita. Ha ragione Maroni, ha ragionissima Maroni. Non ti è consentita questa cosa, scusami, non è possibile. Senti, difficoltà, ragione, cosa dice, che ma nessuna difficoltà, ha ragione Maroni, ma nessuna, no, prego, nessuna difficoltà. Che nessuno voleva il morto e nessuno voleva il ferito. Stiamo ragionando sul fatto che è mancata la prevenzione e si è commesso un errore gravissimo. E via di litigate, maggioranza e opposizione, anche sulla questione di Genova. 800 24 00 24. Veniamo a Santoro, chissà cosa accadrà questa sera. Qualcuno si è sorpreso perché Niccolò Ghedini, che è il legale del Premier, si è espresso a favore del conduttore con queste parole: sia una sanzione pecuniaria molto forte, ma che Santoro possa andare in onda, perché preferisco che ci sia massima libertà di espressione. In realtà Ghedini, alcune volte ospite ad Anno Zero, non è la prima volta che si esprime a favore di Santoro. Lo fece anche a luglio, il 21 luglio, in questo modo. Io credo che di sì che debba andare in onda, dal punto di vista quantomeno dello spettacolo di Anno Zero. Poi io non conosco le vicende contrattuali o i palinsesti della Rai, quindi quello è un problema. Però, ritengo che sia anzi un programma che ci fa prendere un sacco di voti, quindi un programma che ci fa prendere un sacco di voti. Però a questo punto non si capisce chi è che voglia la chiusura di Santoro o comunque le sanzioni a Santoro. Anche perché Questa mattina invece Bondi, questa volta Omnibus, prima Bonaiuti era a Linea Notte di ieri sera, sostiene la decisione di Masi è corretta. La decisione del direttore generale è una decisione ampiamente motivata e del tutto giustificata, considerando quello che era accaduto. Non è possibile che il conduttore di una trasmissione televisiva pubblica esprima dei giudizi così poco corretti, lusinghieri nei confronti del direttore generale della RAI. E poi non si capisce più nulla, perché arcinemici di Santoro, come per esempio Mastella, dice sono solidale con lui. Una volta tanto solidizzo con Santoro, cioè no. Nel senso che sì. Le mezze misure mi piacciono, o tu decidi che uno non ci sta sul video, o se ci sta, ci sta. Ci sta. E anch'io sono d'accordo con Mastella. Eccoci col primo ospite della serata, Giuseppe Pizza, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Come sta? Sottosegretario all'istruzione e segretario nazionale della Democrazia Cristiana, nonché titolare, aggiungo, del marchio DC. O sbaglio, Pizza? Marchio DC, sì, certo. È lei il titolare, no? Dello scudo crociato, dopo una grande battaglia. Sì. Che si è conclusa quando, questa battaglia sullo scudo crociato? Voglio dire... Una battaglia durata molti anni tra le varie componenti della Democrazia Cristiana, sì. E diciamo che ora stiamo cercando un pochino una ricomposizione della diaspora. Ecco appunto, ma a che punto è questa riunione tra pionati? Avete perso intanto avete perso un personaggio di spicco di recente. Abbiamo fatto un convegno molto interessante a Saint-Vincent. Interessante? Organizzato da Rotondi, da me, da Giovanardi, sì. Perché stiamo vedendo un pochino di trovare le condizioni politiche per ritornare insieme. Sempre con Berlusconi però. Sì, siamo alleati con il Presidente del Consiglio, sì. Io non faccio parte della PDL perché ho mantenuto la mia identità, però siamo alleati, leali, ovviamente. Per il momento. Allora, diciamo che sia un'alleanza strategica, non strategica, tattica. Strategica. Senta Pizza, ma avete perso una persona di calibro di recente, cioè Paolo Cirino Pomicino. Non proprio di primo pelo, devo dire, però so, Cirino Pomicino. Persona di grande intelligenza. Certo. Protagonista è passata all'UDC. È passata all'UDC. La Repubblica dell'UDC, quindi resta nella tradizione democratico cristiana. Ho capito, però è passata all'UDC, vi ha tradito. Sì. No, non ci ha traditi, per carità. Ma allora l'UDC. Quando uno è democristiano, lei dice resta sempre democristiano, no? Ma non ci sono dubbi. Ma mi dicono. Che l'assoluta maggioranza dei componenti del Parlamento, sia alla Camera che al Senato, sì. Vengono dalla Democrazia Cristiana. E una cioè lei dice... schieramento trasversale, va dalla Lega a Italia dei Valori. Sì, è la realtà, poi per carità. Cioè lei dice della maggioranza, la maggioranza dei parlamentari, scusi un attimo Pizza. I comportamenti. Scusi un attimo Pizza, la maggioranza dei parlamentari sia alla Camera che al Senato viene comunque è passata attraverso la DC. Cattolico democratico, comunque democratico cristiana che dirsi. Insomma, voglia. Diciamo la verità Pizza, secondo lei non morirà mai la Democrazia Cristiana, questo. Ma rappresenta l'animo profondo di questo paese, il partito della ricostruzione, e al di là di episodi personali negativi, chiunque volesse dare un giudizio storico, sì. Complessivo, rappresenta la migliore classe dirigente degli ultimi 2000 anni del paese. 2000 anni. Me ne trovi una migliore. Cioè, la DC, la classe dirigente della DC rappresenta il meglio degli ultimi 2000 anni. Ma non ci sono dubbi. Beh, 2000 anni, dubbi. Adesso ci sarà stato qualche altro. Ma io voglio dire da Augusto in poi. Da Augusto in poi, la mia è una battuta, però complessivamente il partito che ha ricostruito il paese, ha costruito i ceti medi, il benessere, ha garantito la pace. Ma a che punto siete l'Europa? con questa riunione? Ovviamente. Scusi un attimo, mi dica. Allora, voi siete pionati, come si chiama il movimento di pionati? Vede i partiti. No, ma come si chiama? Mi scusi, ho capito Pizza. Vale la pena come si chiama? Per un po' per chiarezza agli ascoltatori. Pionati, come si chiama il partito? Mi chiama Alleanza per il Centro. Ma come? Manco lei lo sa. Di tradizione democristiana, vabbè, cioè, ovviamente. Chi è Rifondazione Democristiana? c'è l'amico Fiori, poi c'è, c'è Fiori e l'UDC di Pier Ferdinando Cassini. No, no, partito. No, quella è un'altra cosa. Voglio dire, la Rifondazione Democristiana chi è? Ma guardi, Rifondazione Democristiana è un movimento che è una cosa, diciamo, che è una cosa curiosa, no? Democristiano guidato dall'amico Publio Fiori. Publio Fiori, ecco, Publio Fiori. Sì, poi sì, c'è Pionati con Alleanza per il, come si chiama quella roba? Per il Centro. Alleanza per il Centro, poi c'è Giovanardi, che cos'è? Ma Giovanni, guardi, non mi dica, le sigle non significano ma niente. Ma non se le ricorda. Siamo le amici che veniamo dalla Democrazia Cristiana, alcuni hanno deciso di confluire nel PDL. Sì. Io, se pensa, il titolo era La Democrazia Cristiana nel PDL. Io, per quanto mi riguarda, ho corretto La Democrazia Cristiana con il PDL. Sì. Cioè, alleati, ho ma mantenendo le nostre peculiarità. Senta Pizza, scusi un attimo, Pizza. Allora, però io devo fare chiarezza con gli ascoltatori, no? E lei deve fare chiarezza. E certo. Appunto, no, siccome c'è Rifondazione Democristiana, che è una sigla un po' sinistra, perché ricorda Rifondazione, sì, insomma, sì, un po'. Poi c'è Alleanza per il Centro là di Pionati. Sì. Giovanardi con non mi ricordo cosa. Sì. Lei se lo ricorda come si chiama? No, manco io. Manco lei, siamo a posto, se non se lo ricorda lei. Sì. E poi chi c'è? Lei con la Democrazia Cristiana, quello se lo ricorda. Ma, sì, ma guardi, vabbè, in questo momento. Rotondi che c'è? Rotondi è con Giovanardi? No, Rotondi è un'altra cosa. Questa Democrazia Cristiana per le autonomie, e voglio dire, sì, c'è una polverizzazione di questa, esatto, tradizione post-democristiana. Mi sembra di dimentica Scotti. C'è pure Scotti, c'è Io Sud, che c'ha? Io Sud, che c'ha? Anche lui è il suo movimento. Noi Sud, Noi è Sud. Un autorevole rappresentante della Prima Repubblica. Noi Sud, Noi Sud. Noi Sud, noi, sì. Ma alla fine vi mettete insieme oppure no? Non ho capito. Come? Vi mettete tutti insieme oppure no? Ma io sto lavorando in questo senso, io penso. E a che punto siamo? Che ci sia la possibilità di fare un gruppo di 20 parlamentari alla Camera. Sì, a che punto ora siamo? Ma diciamo che siamo in una fase molto avanzata. Molto avanzata, molto avanzata. Molto avanzata. Ovviamente. Eh beh, certo. Senta Pizza, ci fermiamo un attimo per il tramite. Abbiamo scatto, sì, peso, però messi insieme sicuramente. Messi insieme, certo. Andiamo a sentire il traffico, poi torno subito perché le voglio chiedere di questa storia un po' curiosa di alcuni suoi militanti, iscritti, eccetera, che hanno registrato il simbolo di Futuro e Libertà in anticipo, sottraendolo a livello di registrazione a quello, insomma, ai finiani. Traffico. Sempre in collegamento con Giuseppe Pizza. Se la ricorda sta canzone, caro Pizza? Diciamo di sì, da quando sono ragazzo. Quando è che lei ha preso per la prima volta la tessera della DC? Ma nel lontano 1963. Ma lei mica tanto, quanti anni aveva? Io ne avevo 15, quindi passato qualche annetto. È stato iscritto a qualche altro partito? No, non mai, no, sempre fedele. Assolutamente mai. Sempre fedele. Senta, ma è vero che volete fregare il simbolo a Futura Libertà così per fare un, per dare un'assoluta sciocchezza? Però ce l'hanno confermato, che hanno registrato. Se mi fa, allora le spiego. Io un mese fa ho appreso di questa cosa da una telefonata di un amico giornalista del Velino. Ovviamente sono caduto dalle nuvole, ho immediatamente contattato il presidente Fini. Sì. Allora le dico, questi non sono, sembra che non sono nemmeno nostri iscritti. Ma scusi, lei non lo sa, come sembra? Come sembra? Nei nostri iscritti ufficiali ho fatto controllare gli iscritti della Toscana, però avevano un incarico di dirigenti. Appunto. Nel partito. Ma la cosa. Ma scusi, ma lei non lo sa chi sono i dirigenti del suo partito? Siete quattro gatti. Guardi, noi siamo decine di migliaia di iscritti, non penserà che io conosca tutti i miei iscritti uno per uno. I dirigenti almeno sì. Sono molto colpito da questa vicenda. Scusi, un attimo solo, Pizza, qui c'è Segreteria Regionale Toscana della Democrazia Cristiana, Vice Segretario Politico Regionale, dottor Ginetto Sugliano, il quale ci ha confermato che lui ha registrato il simbolo Futuro e Libertà. Ma non ci sono dubbi, però voglio dire, sono delle iniziative personali. Non ma questo era vostro partito o no? Era vostro o no? Ma guardi, io non ho una conoscenza personale degli iscritti, le posso subito dire che se questa iniziativa è stata fatta, sì, è stata fatta a livello personale. Sì. Io la condanno perché ritengo che utilizzare sotterfugi giuridici per complicare la vita a un partito largamente rappresentato nel Parlamento e nella società, sì, che è assolutamente deleterio e avventuristico. Ok, ma l'hai espulsi questi ieri, qua o no? L'hai espulsi? Ieri ho preso la decisione, sì, di, se sono iscritti, di sospenderli, ma sembra che non siano iscritti. Ho capito, ma questo qua è vice segretario politico della regione. Il comitato regionale della Democrazia Cristiana, dando l'incarico all'onorevole Moretti di mettere un ho po' capito d'ordine. Senta, ora, scusi un attimo, pizza, scusi un attimo. È una responsabilità che riguarda loro. No, ho capito. Io come partito non posso che condannare, certo, che condannare nella maniera più netta la cosa. La cosa, pizza, scusi un attimo, la Democrazia Cristiana in Toscana, io penso adesso con tutto il rispetto, sono quattro gatti il suo partito in Toscana. Questo qua si presenta come vice segretario politico regionale, dottor Ginetto Sugliano, è quello che ha registrato per cercare di fregare i finiani il simbolo Futura Libertà per l'Italia, non so che cosa, presso il Ministero delle Attività Produttive. Ora, lei è possibile che non conosce questo tizio? Ma guardi, io cioè, non conosce i suoi dirigenti, mi spieghi un attimo. Ma guardi, io le posso dire che non conosco le persone, o se le ho viste in occasioni di sfuggita, così, non personalizzate, no, non certo ce l'ho presente. Ritrovo che la cosa sia grave ed è una prova dell'imbarbarimento politico del paese. Addirittura. Perché, ma una volta non succedeva che venissero registrati surretticiamente. Beh, anche lei in quanto sa che no, uno assolutamente, guardi, io sono un esponente storico della Democrazia Cristiana. No, ho capito, però uno fa 2+2 dice capo dei giovani democristiani, sì, ho fatto parte della direzione nazionale della Democrazia Cristiana quando era il massimo organo di potere di questo ho paese. Capito. Le storie sono completamente diverse. No, certo. Però uno pensa ai simboli, una battaglia per prima piccoli, poi io, perché sì, la Democrazia Cristiana, nonostante che nelle ultime elezioni in cui si sia presentata ha conseguito 11.5 milioni di voti, è stata chiusa da Martinazzoli. Io penso che i partiti debbano essere chiusi dagli elettori. No, ma ho capito, pizza, questo è un altro discorso. Allora, io vabbè, adesso scusi un attimo, facciamo così, pizza, scusi un attimo, facciamo in maniera più completa da questa azione che io trovo assolutamente avventuristica. D'accordo, siccome noi abbiamo contattato il partito, ha commissariato il partito, benissimo, essere associato a vicende che non appartengono né alla mia cultura, né alla mia storia politica, né alla cultura e alla storia politica del mio partito. Però, mi scusi, fate cambiare il sito, cioè i dirigenti di questo partito lei li potrebbe anche conoscere, insomma, no? Questo si presenta come vice della Toscana. Il segretario che qui, Roberto Parenti, non conosco le persone, ieri ho provveduto a commissariare la Democrazia della Toscana. L'abbiamo capito, grazie, adesso grazie, ci sentiamo dopo perché poi avremo anche il signor Sugliano in diretta, magari la chiamiamo, a dopo. Mi pare possibile che il signor Pizza, che è sottosegretario all'istruzione, non conosca i suoi dirigenti in Toscana? Bah. Francesco, provincia di Frosinone, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica, lei in viva voce. Ecco, un attimo. Ecco, appunto. Clemente, provincia di Siena. Sì, buonasera, Cruciani. Dica. Lei è molto crudele, non le piace la pizza, poverino. L'ha trattato malissimo. No, malissimo, normale, normale, su. Senta, io volevo fare l'intervento su Santoro. Sì. Io ora non so se era in calo come ascoltatori, ma ogni volta fa le sue sparate e noi tutti gli si va dietro, più gli si dà importanza, più lui passa da martire e ottiene visibilità. Io penso che personaggi come Santoro, che io ogni tanto guardo, quindi non è che meriterebbero un po' più di meno considerazione da parte dei dirigenti della RAI, dice? No, dico proprio dalla stampa. Cioè, Santoro mi sembra che viva semplicemente di sul martirologio, sì, ho capito, sulla martirizzazione. Clemente, un po' è vero, mi ha sorpreso che con tutte le notizie che ci sono per un giornale come Repubblica, non per una trasmissione come La Zanzara, oggi il primo titolo di Repubblica sia stato dedicato alla vicenda di Santoro. Comunque, Francesco, provincia di Frosinone, sentiamo se è di nuovo in collegamento. Buonasera. Dica. Io come l'altro ascoltatore volevo riferire. Lei è di nuovo in viva voce, Francesco. Io non so cosa fare. Massimo da Torino, buonasera. Buonasera, Cruciani, mi sente? La sento bene, dica pure. Io volevo proporle un paragone, un argomento di discussione diverso, cioè vedere la questione Santoro da un punto di vista di paragone, no? Io ho pensato, Mourinho e Santoro, due personaggi che lavorano in ambiti diversi, ma due personaggi di successo, che hanno questa caratteristica di attirare fortemente o grandi simpatie o grandi antipatie. Mm. Secondo lei, Mourinho, se all'Inter sbagliava qualche risultato, l'avrebbero cacciato via? Non lo so, non mi sembra un paragone che si possa fare, Massimo, francamente. Flaviano da Milano, no, ma non stare in cielo né in terra, sono due ambiti completamente diversi. Non mi sembra paragonabile in nessun modo. Spesso facciamo paragoni arditi, eccetera, per carità, si possono fare. Questo mi sembra fuori luogo. Flaviano da Milano. Pronto? Sì. Dica. Buonasera, Cruciani. Intanto le faccio i complimenti perché veramente lei ha... Lei però ha 30 secondi, di Flaviano. Ah, bene. Niente, per quanto concerne lì il discorso di Genova, non Genova, cioè, sì, come io sono stato proprietario di una squadra di calcio, no? Sì. E conosco molto bene certi meccanismi. Però io dico che le affermazioni di Maroni sono molto intelligenti e probabilmente, siccome l'ho vissuto di persona, ci sono anche delle ripicche tra forze dell'ordine, glielo Flaviano, posso garantire. Può darsi, ma lei è troppo lungo. Se vuole ci sentiamo dopo il giornale radio delle 19 800 24 00 24. Siamo qui 19:18 di nuovo con la Zanzara, 800 24 00 24, e voglio subito introdurre questa nuova parte della trasmissione con un ascoltatore, così per cambiare. Giuseppe da Latina, intanto da Gioia del Colle, David Parenzo. Tutto è vero, buonasera direttorissimo. Cosa ci fai a Gioia del Colle? Tu che sei uomo del nord. Come dice Rat the Gun, sono fatti miei. Però te lo dico e te lo rivelo perché sono qui a un convegno organizzato dalla Confabi, che è l'associazione delle piccole imprese. Sì. All'università Lum Jean Monnet, università nota nella penisola italica, anche perché c'è un docente eccellente quale il professor Pollari. Ma queste piccole università che hanno proliferato negli ultimi anni, che lo diciamo, insomma, tutto vero, tutto vero, vabbè. Insomma, e quindi sono venuto qui a un convegno sul Sud, sì, Sud istruzioni per l'uso, con niente po' di meno che l'ex ministro Pagliarini. Te lo ricordi, il ministro del bilancio, quello che diceva Tagliarini. Il vecchio Paglia, vecchio Paglia. Ma lui è lui che si nomina in questo modo, Perché lo chiami il vecchio Paglia? No, si autochiama sul suo sito leggo il vecchio Paglia. Ma è vero che sul tuo sito c'è scritto il vecchio Paglia? Certo. Perché ormai non sono più tanto giovane, io sono il vecchio Paglia, certo. I vecchi di solito sono saggi. Buonasera, Pagliarini, buonasera, come sta? Comandante, sto benone, mi diverto un mondo, anche perché qui quando c'è Davide di mezzo è certo sempre un bel casino e quindi è divertente. Senta, subito un flash, poi rimane in collegamento con noi, ma mi spieghi un po', lei che conosce Bossi da che anno? 1990-91, da quando lo conosce Bossi? No, direi anche 89. 89, ora... Questi gestacci, il dito medio alzato, le pernacchie, come mai? Ah sì, ho letto qualcosa. Beh, per andare dritto al punto, no? Invece di fare tanti giri di parola, è una bella sintesi. Infatti a me piacerebbe molto Bossi come sindaco di Milano, che ho visto che su qualche giornale che qualcuno... Beh, da tempo c'è quest'idea, ma insomma credo che la Lega e il PDL sceglieranno la Moratti o no? Non è così sicuro lei? Non lo so, io intanto le do un'anticipazione, l'ho già detta a David prima, no? A Milano c'è la Lega Padana Lombardia. Che cos'è? È un buon partito, quello ha fatto Bernardelli, cioè, da 5-6 anni. Sono 4 gatti. Io non sono di nessun partito, però Lega Padana Lombardia, gli ho fatto un manuale, l'hanno pubblicato, sì, sono presenti, no? In Lombardia ci sono. E Bernardelli mi ha telefonato giorni fa, dice Paglia. Sì. Noi abbiamo pensato questo: se si candida Bossi sindaco di Milano, noi gli facciamo campagna elettorale gratis, diciamo dei voti, perché la Moratti è brava, ma fa tutto quello che vogliono a Roma. Aveva vinto l'Expo con una sua squadra. Ma questo lo dice lei o lo dice Bernardelli? Lo diciamo tutti e due. Allora? Per esempio, l'esempio della Moratti, no? Insomma, andiamo al punto. Allora, se non si candida Bossi? Bernardelli dice: se candidano Bossi e Segno Milano, siamo contenti. Se non candidano Bossi, allora noi possiamo candidare Pagliarini. Ho detto: per carità, figurati, come no, non c'è mica nessun problema. Bossi sarebbe meglio, se Bossi non si candida. Ma voi che... ma quanti voti potete togliere a, diciamo, alla Moratti? Insomma, a me non me ne frega niente toglierli a uno o altro. Se faccio il sindaco, faccio come in Svizzera, no? La formula magica. Cioè? In Svizzera nel governo c'è maggioranza e opposizione. Sì. E a questo punto... Cioè fa il governo di tutti, lei fa. La famosa formula magica, in Svizzera funziona. In Svizzera, pure in Italia c'è stato il compromesso storico, non è che bisogna andare in Svizzera. Sì, ma vabbè, dopo questa notizia che il vecchio Paglia potrebbe candidarsi a sindaco di Milano, andiamo a Latina. Giuseppe, buonasera. Buonasera, volevo intervenire per quanto riguarda Santoro. Dica. È una porcata quella che ha fatto Masi. Probabilmente il fatto che si è fatto la nuova fidanzata... più giovane, l'ha rinvigorito un po' e ha fatto una fesseria. Addirittura lei parte da questioni che riguardano l'adrenalina le donne. Io parto dal famoso editto bulgaro che a Romano si sono seguiti i fatti in pratica. Giuseppe, però se rimaniamo all'editto bulgaro, cerchiamo di dire qualcosa in più. Masi, che forse vuole fare, sta cercando di fare un favore a Berlusconi. Ci sono tante... Sicuramente, essendo Masi un uomo di Berlusconi, oppure qualcuno, come dice, essendo lui stesso vittima di Berlusconi, cerca di vittimizzare qualcun altro. Credo l'abbia scritto Aldo Grasso di recente, cose di questo tipo. Beh, insomma, se poi torniamo sempre all'editto bulgaro, è abbastanza noioso. Però scusi un attimo, fermo. TG3, sì. Titoli. Schifani risponde a Fini, alla legge elettorale ci pensa il Senato, la replica, questo vuol dire che non se ne farà nulla. Università proteste in piazza, rinviata a fine anno la riforma, Bossi fidiamoci del governo, Bersani non si può umiliare la ricerca. Parata la finanziaria, governo pronto alla fiducia, Tremonti voto unanime, ora lo sviluppo, ma Galan dice una tragedia, non ci sono soldi. Sono tutti salvi, 33 minatori cileni per oltre 2 mesi intrappolati nelle viscere della terra, ultimo a salire il caposquadra. Ivan, il capo dei teppisti, ora in carcere, chiede scusa, nuove accuse dai serbi, Maroni rido delle critiche di Belgrado, altri arresti. Scoperto dal RIS impronte diverse sul cellulare di Sara, la ragazza uccisa dallo zio, nuovi dubbi degli inquirenti. Il TG3 in esclusiva sul pullman di Vasco Rossi, in tour per l'Italia, il rocker a ruota libera su intolleranza e tagli alla cultura. Parenzo? Eccolo! Davide, in molte persone ci stanno chiedendo da giorni dove è finito Luca Telese. Lo sai, no? Se ne sta occupando la Sciarelli anche. Se ne sta occupando la Sciarelli, c'è anche una prossima puntata di un nuovo programma di Corrado Augias. e forse anche Salvo Sottile su Rete 4. Beh, programma. Corrado Augias però fa il telefono giallo per i morti. No, per carità. Però noi l'abbiamo intercettato. Attenzione, l'abbiamo intercettato nel purgatorio dove l'abbiamo messo. L'abbiamo intercettato per un attimo, perché anche dal purgatorio si può comunicare, no? Siccome è in purgatorio, è inutile che vi dico perché, è in purgatorio. Lui sa perché, e non c'è bisogno di spiegarlo, non è che bisogna spiegare sempre tutto, no? Non bisogna spiegare tutto. Noi siamo una casa di vetro, però diciamo al 99% siamo una casa di vetro? Al 99%? Sì, no, cioè, ci teniamo quell'1%, no? Ce lo possiamo tenere questo 1% o no? Io penso di sì. Non c'è dubbio. L'abbiamo intercettato in purgatorio. E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Ma lo sai la cosa incredibile qual è stata, David? È che in purgatorio l'abbiamo intercettato che cantava una canzone di Eros Ramazzotti. No. Sì, si è messo. Telese che canta. Sì, perché in purgatorio può succedere qualsiasi cosa. Naturalmente, una persona perde anche un po' il senso della realtà, del contatto con la terra, il contatto con quello che è la propria vita, il proprio lavoro. A un certo punto si è messo a cantare Ramazzotti, senti, beh, questa è un'aggravante, però conta cantare, ma cantare Ramazzotti, no, perché è un aggravante, anche a me piace Ramazzotti, via via. Nato ai borghi di periferia, e devi guardare in camera, sì, sì, vai. Dove i tram non vanno avanti più, pianista, dove l'aria sa? È popolare. Guardare in faccia la realtà e do imparato. E qua sono di Milano, nessuno mai ti dà di più, e ci sei adesso tu a dare senso ai giorni miei. Parenzo, gli hanno fatto una festa in purgatorio per fargli cantare Ramazzotti, non so, ti rendi conto. Una cosa meravigliosa. Poi a un certo punto, sempre dal purgatorio dov'è, si sente forse in un momento di autoesaltazione, eccetera, eccetera, pensa di essere il nuovo Fiorello. Per carità, è bravissimo, Luca, però insomma, adesso, piano, con calma, insomma, guarda, senti, è una cosa pazzesca. Ciao, sono Luca Telese. E volevo fare un appello. Ogni anno la televisione italiana è infestata dal morbo del giornalista simpatico. Avete presente quei giornalisti che hanno la battuta pronta, che si mettono in gioco e vogliono dire basta ai giornalisti simpatici? Lo so, lo faccio anche io. Ma se sono qui stasera è perché voglio uscire dal tunnel. Dal tunnel della simpatia. Io voglio, come tutti i miei colleghi, dire quello che sono. Io sono cinico e stronzo, fondamentalmente un paraculo. Sarebbe troppo facile scrivere su un giornale e sparire. No, noi giornalisti vogliamo esserci, vogliamo essere qui, vogliamo metterci la faccia. E sapete perché? Perché dentro di noi si nasconde un piccolo Fiorello. Allora aiutatemi a smettere di fare il giornalista simpatico, fatemi diventare Fiorello. Tra l'altro sono il flauto e so fare anche il decoupage. Canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Ma qui la morta poi si resurga, o sante muse, poiché vostro sono. Hai sentito, è impazzito, eh? Meraviglioso. È impazzito in purgatorio. Celestiale. È impazzito in purgatorio. Capisco che è purgatorio, per carità, però insomma, Fiorello da una parte, Eros Ramazzotti dall'altra. Però ci ha dato un ritratto, come dire, anche completo ormai del grande Telese, un ragazzo, un collega eclettico, capace di dire. Lo so, ne parli al passato come se fosse, ne parli al passato, manca, è vero. A me davvero manca. A me manca moltissimo, è là in purgatorio e vedremo nei prossimi giorni. È come se un pezzo di me non ci fosse più. Esatto, in purgatorio lì ogni tanto perde la testa, canta canzoni di Eros Ramazzotti. Meno male che non l'hai mandato all'inferno, perché ti ricordo adesso, dice, era Sermonti, credo, questo, no? Questo era Sermonti, sì, era Sermonti. Ecco, perché se facevi l'inferno, io ricordo il Barbariccia, no? Sì. Il diavolo. Com'era quel verso di Dante? Dei dal cul fece trombetta. No, ma l'inferno, ricordi, no? L'inferno è, oddio, sono pene gravi per l'inferno. In questo caso c'è una pena che comunque c'è, ma una pena insomma media, adesso lieve, mi sembra. Borsa. Eccoci, 800 24 00 24, andiamo a Vicenza. Roberto, buonasera. Buonasera Luciani, saluto anche il divino Parenzo, sempre apprezzato. Il divino Parenzo, addirittura, lei ha fatto un mix tra il divino Telma e David Parenzo. Il suo alter ego. Non so se apprezzerà Parenzo. Beh, comunque, no, è una bella competizione, comunque pensi all'altezza. E, niente, io chiamavo per quanto riguarda un commento sulle sciocchezze, secondo me, che vengono dette in queste ore dopo i casi di Genova, come se in Italia scontri fra polizia, fra tifosi, eccetera, non fossero mai accaduti, e quindi dobbiamo scandalizzarci perché abbiamo evitato le Isel, quando una settimana fa Gubbio Alessandria ha visto il portiere del Gubbio prendere un pugno in faccia dai tifosi, quando qualche anno fa il derby Roma-Lazio è stato interrotto con tanto di invasione di campo e quindi è stato assolutamente impossibile continuare la partita sotto le minacce dei tifosi, quando Raciti nel 2007 è stato ammazzato da dei tifosi dopo non una guerriglia, dopo una guerra vera e propria durata tutta la notte a Catania. Ecco, io mi chiedo cosa ci sia da in Italia da scandalizzarci o da dire abbiamo evitato l'Eisel. No, ma lei ha ragione, Roberto, non può essere un alibi o comunque un punto di forza nello spiegare quello che doveva accadere martedì a Genova, cioè che quelle persone là non dovevano entrare allo stadio, e che se dovevano entrare allo stadio certo non dovevano entrare armati di bengala, tronchesi e altre armi assortite, insomma. Infatti basta vedere la curva del Genoa come quelle di altri stadi, vuol dire c'è una rete in acciaio sopra, ci saranno stati dei precedenti, cioè sembra che noi veramente ogni tanto siamo qualche politico, cavalchi sempre la tigre per contestare il governo, ecco, questo fa parte del gioco, però cada dalle nuvole. Oggi il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha detto: a Genova è mancato lo Stato che deve dare le condizioni di sicurezza al cittadino, è gravissimo che non sia avvenuto, che lo dica De Laurentiis, comunque il ragionamento fila, è lo Stato che deve dare le condizioni di sicurezza al cittadino, è gravissimo che non sia avvenuto, la prevenzione non c'è stata nelle forme e nei modi che potevano evitare problemi e Genova era già stato al centro del G8. No, ma lei si immagina cosa vuol dire perquisire in ogni dove a questo punto, perché sembra che i bengala l'abbiano nascosto, vabbè. E perquisire 2000 persone che hanno fatto dei disastri prima o che comunque no, ma scusi provato. Roberto, era giusto farlo, eh? Sì, era giusto farlo, però a questo punto qui mi scusi, bisognava... Allora, se non si perquisiscono 2000 persone che cosa stiamo a fare? No, vabbè, ma, ma io mi metto nei panni di 50 poliziotti che erano lì col manganello in mano. Ho capito, ma Roberto, di che stiamo parlando? Cioè, comunque la ringrazio, mi ha colpito molto una lettera pubblicata oggi sul Corriere della Sera da un signore che si chiama Alberto Zucchi. La lettera ha questo titolo: le bestie entrano armate, i miei bambini perquisiti. Ed è una lettera di un padre genovese che martedì sera ha malauguratamente desiderato portare i propri figli allo stadio per vedere la nazionale. È rimasto colpito dalla scandalosa inefficienza organizzativa del carrozzone Italia, eccetera, eccetera. Le bestie hanno di tutto: bandiere che bruciano, cesoie, missili terraria, fumogeni, bombe carta e via. Tiziano da Pavia, anzi, prima c'era. No, Tiziano da Pavia, buonasera. Buonasera. Mi sente? Dica. Innanzitutto vorrei fare una premessa per non beccarmi del berlusconiano come si becca normalmente lei. No? Cioè, io un voto dal 96 adesso non l'ho dato a Berlusconi e neanche a quelli che ha insieme. Quindi vado a dire una cosa e posso dirla tranquillamente. No, però scusi Tiziano, non è che uno deve fare una dichiarazione di voto prima di fare un intervento qui, non me ne importa nulla per chi ha votato lei, io sì. Sto a sentire quello che lei ha da dire, non per quello... prevenire quello che vado a dire, perché è chiaro che ma non io c'è non nulla da che... prevenire, io non ragiono per schemi, io non dirò che è un delinquente, mi diranno che sono un berlusconiano, no? Vabbè, comunque dica. Cioè, allora, quando si parla appunto che nel DNA questa associazione delinquere così, cioè io sono totalmente in disaccordo, penso che sia una cosa assurda. Ma quello lo diceva Sonia Alfano, diceva che Berlusconi ha nel DNA la propensione a delinquere. Ecco, se invece si dice magari che nel DNA di raccontare le barzellette, magari ficcare del coglione qualcuno che gli fa comodo, magari potrebbe poi, essere vero. Superato la questione del DNA che c'è... Superato questo c'è il discorso dei due ascoltatori che hanno chiamato venerdì, che hanno fatto un casino un po' infernale, no? Cioè, noi in questo periodo siamo in un momento dove quando ci si parla in politica, fuori, al bar, così, le discussioni sono sempre un po' accese. Quindi il fatto che neanche nella sua trasmissione c'è un po' questo stile cioè, è una cosa dei questi tempi, cioè non è una cosa che uno si deve meravigliare. Vabbè, no? Dunque... Poi, quando parliamo invece di Santoro, secondo me bisogna distinguere due cose. Cioè, hanno detto che fa l'audience, che tiene in piedi con i suoi soldi praticamente il canale televisivo, no? Sì. Questo fa l'audience mettendo la cacca nel ventilatore. Cioè, allora, Tiziano, adesso la cacca nel ventilatore, questo mi sembra un giudizio, no, un giudizio un po' forzato. Dice magari che uno è incostituzionale in quello che fa, la sua costituzione alla RAI... cos'è? È lo statuto e il contratto di lavoro che ha. Vabbè, Tiziano, non ho capito niente di questa cosa di Santoro. Non ho capito se lei, andiamo al sodo, lei è favorevole a questa sospensione decisa da Masi o no? Com'è? È favorevole a questa sospensione decisa da Masi o no? No, io l'avrei mandato a casa. Lei l'avrebbe licenziato, benissimo. Chi c'è? Grillo? No, non c'è. Salvo da Catania. Sì, Cruciani, buonasera. Buonasera, dica. Io volevo intervenire per quel che concerne la vicenda di martedì sera, tragica per quanto sia, ha però assunto, secondo me, degli aspetti tragicomici grazie ai quattro dell'Ave Maria, o meglio, collovati Dossena, il capoclac Mazzocchi e Gentili. Sì, qualche perché... cosa abbiamo già mandato in onda ieri sera, sì, però le... Anche se non bisogna gettare troppo la croce sui situazione, non è che bisogna fare i professorini, è facile farlo quando non si è in diretta, no? Sì, sì, io non voglio fare qui assolutamente la morale, la lezione di nessuno, però dico enfatizzare in quella maniera quell'evento con perché veramente poi a un certo punto io mi sono ritrovato a ridere quando Mazzocchi esclama una frase del tipo entrano gli idranti come se fosse praticamente un circo, Collovati che propone di chiudere gli ospiti per 3 giorni dentro lo stadio, Gentili che strillava continuamente, Dossena che sembrava effettivamente a un certo punto sembra che abbia detto colpiamoli, ma non so se si riferisse a colpiamoli fisicamente oppure sì, ma lo ricordo perfettamente, colpiamoli, ma cosa dobbiamo colpire? Cioè, ma già la vicenda è tragica in sé, c'è un signore veramente che sta tenendo sotto scacco l'Italia intera, Ivan il Terribile. Vi aggiungete anche voi che siete veramente, sembrate più che dei giornalisti, dei professionisti della guerriglia urbana, effettivamente mi sembra un po' scandaloso da parte di... Va bene, Salvo, va bene, ho capito perfettamente. 800 24 00 24, finalmente collegamento con Beppe Grillo. Grillo, però, che sta facendo? No. Come? Che sta facendo, mi scusi? Chi parla? Sono Cruciani. Oh mio Dio, che giornata di merda. Scusi, però qui c'è una questione fondamentale da risolvere. Tenendo allenato con le mani, perché io lavoro solo con la tastiera, solo, quindi mi stavo allenando, non sto scrivendo niente, un cazzo, ma mi sto allenando con la tastiera. Scusi Grillo, ma hanno fatto, le hanno mandato, la cosa mi ha stupito perché è un tema suo che le sta molto a cuore, un appello per il wifi libero. Non mi interessa nulla il wifi. Perché non l'ha firmato? Perché non l'ha firmato questo appello? Perché per noi il wifi libero è una delle nostre 5 stelle. Io ho capito, appunto. Allora perché non ha firmato questo appello? Ma perché mi rompe i coglioni così? Mi fa domande e non mi fa neanche rispondere. Io da anni sto combattendo perché ci sia in Italia. Il problema è che ancora tanta gente non sa nemmeno cosa sia il wifi o il WiMAX. Voi avete nella testa soltanto delle cazzate. Parlate di industria. Industria. No, ma ho capito. In nessun paese esiste una norma così restrittiva. Però... in Finlandia, che lei non sa neanche dov'è la Finlandia, tutti hanno diritto, sì, per più o meno, un lo so. Megabyte di concessione che permette di collegarsi alla conoscenza, ha capito? Sì, ho capito, però c'è un'altra questione. Adesso c'è un progetto di legge trasversale per il wifi libero. Ma lei, che ci sono diversi politici, eccetera, perché non me ne frega un cazzo di questa proposta di legge. Non voglio entrare in una proposta di legge di morti che non sanno nemmeno di cosa stanno parlando. C'è un altro modo di vedere il mondo e loro non se ne sono accorti, e lei è tra questi qui. Voi pensate solo alla Confindustria. Ma in questo caso non c'entra niente la Confindustria, certo, scusi. Certo. Voi avete i nomi Marcegaglia, Bomba 6, ma uno che si chiama Bomba 6, voglio dire, ma di che cosa? Cruciani, siete come cacofonico, Giuseppe Cruciani, fa schifo. Ho capito, però mi scusi, in questo caso si sta andando verso il guai, si potrebbe andare verso una cosa che a lei dovrebbe andare, lei insomma dovrebbe essere favorevole, cioè il wifi libero, cioè perché non firma questa proposta? Non capisco perché non firma. Ma perché lei non sa, se io le chiedo che cos'è il wifi, il WiMAX, lei non sa neanche che cos'è. Ma vi rendete conto, noi siamo ancora a parlare, se abrogare o modificare una norma retrograda, come se dovessimo uscire dal paleolitico, si appellano alla sicurezza ma con l'iPad. Perché lei dice che non lo sanno, i politici non sanno niente. Lei dice che i politici non sanno niente di queste cose. Non sanno i politici, i giornalisti, Cruciani, Marenzo, tutti non sanno un cazzo. Parenzo, no, Marenzo. Ma non lo so, ma non mi interessa niente. Dunque l'appello dell'Espresso, non lei, l'appello non dell'Espresso lei non lo fa. Non mi interessa De Benedetti, non mi interessa. Ma scusi, c'è... Che si chiama Amaui. No, ma non è più il direttore dell'Espresso. Appunto, vede, quindi non mi interessa. Però scusi Grillo, c'è anche un noto blogger che si chiama Alessandro Giglioli che si batte molto per questo wifi. Una volta le chiese anche un'intervista, lei insomma, un po' nicchiò. Cosa... Ma non mi interessa, ma io posso scegliere, io voglio scegliere con chi parlare, il popolo di Woodstock, popolo 5 Stelle, il popolo di Woodstock è anche un po' con Vodko, che quello lì è un bravissimo PM che ha fatto delle inchieste brillantissime, questa è gente moderna. Come Woodcock, questa. Woodcock è moderno. Woodcock con quella moto, la modernità inquina molto meno di un Cruciani qualunque, Woodcock sempre nel suo ufficio, ad andare a visita di casa a tutti, a tutti. Ho capito, ma... Non inquina, sta sempre fermo nel suo ufficio, appena vede che qualcuno rompe i coglioni, avviso di garanzia. Meraviglioso, è lì nel suo ufficio, non esce mai, sta sempre lì, guarda il computer. Ma lei è innamorato di Woodcock perché assomiglia a Woodstock, lei ha fatto... Woodstock è un PM 5 Stelle, un chiarissimo PM 5 Stelle. Vabbè, lei non vuole firmare... Arrivederci, non sento più la tastiera. Eccolo, là, è partito. È partito. Alessio da Pordenone, buonasera. Buonasera, dottore, complimenti per la pazienza che ha durante la trasmissione. Lo so, ma qui visto che. Senta, intervengo per il discorso di Marassi. Mi è anche simpatico Maroni, però non capisco perché non si possa ammettere che si poteva fare qualche cosa di più. Quando la polizia è entrata in campo. Mi ricordo di aver sentito la gente applaudire sugli spalti. Cerco di interpretare quell'applauso. Non penso che fosse perché si sperava che la polizia si piazzasse lì davanti a guardare la confusione che quello Shrek col cappuccio faceva insomma sulla transenna. Probabilmente la gente pensava che l'intervento della polizia facesse uscire chi di dovere e potersi vedere tranquillamente in pace la partita tutti quanti. La cosa che poi mi ha impressionato è vedere quella bambina che è stata inquadrata, avrà avuto 14-15 anni, insomma, ma quale genitore rimane lì con una ragazzina di quell'età in mezzo a quella confusione? No, ma quello è chiaro. Guardi, è anche abbastanza normale che un ministro degli interni difenda la propria polizia e l'operato della propria polizia, perché siamo di fronte comunque a delle cose non catastrofiche dal punto di vista dell'organizzazione, sia chiaro. Il punto è un altro, quelle persone non potevano entrare armate, c'è stata una mancanza là nel filtraggio, ma questo è evidente, non è possibile che siano entrati in Bengala, non è possibile che siano entrate le cesoie, qualche responsabilità da questo punto di vista c'è stata, io non so dire quale, ma insomma si può anche dire senza mettere in dubbio l'operato della polizia, poi non è che insomma, la polizia si può anche criticare quando sbaglia. Certo, bene, grazie. La ringrazio lei, arrivederci. Giorgio Stracquadanio, buonasera. Buonasera a lei, Cruciani. Mitico Predellino. Parenzo, grazie. Ci sei? Come no, quando c'è Straguadagno non posso mancare. Se imparaste a pronunciare il mio nome poi... Ma non è Straguadagno, Straguadagno ogni tanto qualcuno gli dà questo soprannome per una famosa... Straguadagno. Per una famosa intervista. No, non è gno alla fine, N-I-O. Mi ha invitato un sacco di volte, ci siamo conosciuti, visti, frequentati... Ma ancora il mio nome Parenzo non lo impara. Ha ragione Otelma, ha ragione il divino Otelma. Sei il nulla, sei il nulla. Detto da Staguadagno. Va bene. Allora, è una critica costruttiva. Staguadagno, lei è in grado di parlare di qualsiasi. Vedendo... Mi permetto di scherzare con voi perché siete così simpatici tutti. No, ma cioè lei può scherzare sempre, deve scherzare, altrimenti andiamo tra lo scherzo. No, che vita è impossibile. Esatto, che vita assurda sarebbe. Ora, voglio dire. Tornando proprio all'attualità, poi passiamo a parlare di Santoro. Sì. Ma insomma, si può criticare sta polizia per quello che è successo o no? Mi dica la verità. Sì, per carità di Dio, si può criticare con l'obiettivo che non succeda più quello che è successo. Cioè l'obiettivo non è trovare un capro espiatorio e darlo in pasto al pubblico e dire abbiamo trovato il colpevole dell'errore. È dire che forse dobbiamo avere un atteggiamento un po' più severo nel controllo degli stadi e nel controllo dei tifosi, anche se non dimentichiamo il fatto che eravamo ospiti di cittadini stranieri e quindi in qualche misura... Come eravamo ospiti di cittadini stranieri, scusi? Noi stiamo ospitando cittadini stranieri, questi sono tifosi della Serbia, sì. E quindi in qualche misura, come dire, maniere un po' troppo decise da parte della polizia potevano creare problemi anche di carattere diplomatico di ospitalità. No, però mi scusi, certo, se uno è un delinquente, anche se è straniero. No, per carità di Dio, dico. Non dico che non dovevamo avere un filtraggio migliore all'ingresso allo stadio, un controllo di ciascuno di quelli che entrava, e magari con un passaggio attraverso metal detector o comunque controlli individuali. Sì. Questo andava fatto, probabilmente avremmo evitato, e forse avremmo necessità anche di coordinarci con le polizie dei paesi vicini per sapere chi viene. Sì, no, certo, ma senta, la telecronaca della Rai... Mi pare che fossero tutti, come dire, non di primo pelo. No, no, su questo non c'è dubbio. Senta, ma ci sono state molte critiche anche sulla telecronaca della Rai, qualcuno che dice colpiteli, altri che dicono bisognava rinchiuderli tutti. Secondo lei non l'ha seguita la telecronaca, immagino, in diretta, o sì? No, io purtroppo non c'ero. Senta, però, secondo lei... la radiocronaca mi ha molto preoccupato. Secondo lei andava preso qualche provvedimento vigoroso, forte, anche contro quel tizio che era là, il famoso ormai Ivan? C'è stata anche un'imitazione ieri sera alle Iene, ormai si passa dalla tragedia alla farsa ogni tanto, no? Perché poi adesso sì, diventa addirittura, certo, un'imitazione. Diventa tutto caricaturale. Diventa invece... Certo, secondo me, voglio dire, ci devono essere da questo punto di vista anche delle nette prese di posizione del nostro governo nei confronti del governo serbo. Perché una ma lì sul posto bisognava essere più duri, secondo lei, con questi tifosi? Guardi, bisognava evitare di aumentare i rischi, e quindi contenere la violenza è stato utile, e forse non bisognava neanche iniziare la partita, ecco. Perché poi l'abbiamo dovuto sospendere dopo 6 minuti, quindi no, sì, questa è stata l'insistenza dell'UEFA, come dire, la speranza che il gioco acquietasse chi era andato per far danno era una speranza un po' che si è rivelata un'illusione. Però questo è stato il motivo per cui la partita è iniziata, cioè si è creduto che iniziando la partita i tifosi si mettessero di essere demolitori invece che tifosi dello stadio e portatori di violenza, e invece c'è gente che non segue gli eventi sportivi. Parenzo, per la violenza. Parenzo, voglio chiederti una cosa: secondo te Santoro questa sera, tu hai delle anticipazioni, cosa farà? Un attacco a Masi per essere licenziato per arrivare allo scontro finale, oppure un po' sorvolerano? Non credo cosa farà Santoro stasera, non lo so, sicuramente ci saranno ascolti enormi per Rai 2, perché saremo tutti lì incollati a vedere il suo editoriale iniziale. Però è vero che ormai siamo arrivati, come dire, alla conta, cioè ne sopravviverà, l'avevamo già anticipato ieri sera, ne sopravviverà uno solo tra il direttore generale e il Michelone nazionale. Mi pare abbastanza in Italia i compromessi sono sempre all'ordine del giorno, per cui non so. Ma c'è una rottura, come dire, non politica, proprio mi pare lavorativa, no? Tra lui e... cioè lui non può più tornare indietro. Come finirà, Stracquadagno, no? Come finirà questa vicenda? Non lo so, ma tanto non può finire in nessun modo, perché se anche Santoro venisse allontanato dalla Rai, va dal pretore che lo reintegra, perché abbiamo stabilito in Italia questo strano principio che se l'editore è privato decide l'editore, ma se l'editore è pubblico decide il giudice. Beh, no, ovvio, anche lei, come lei sa bene, anche nelle cause private, cioè anche quando c'è un editore privato spesso i pretori del lavoro... Ma il diritto di un direttore reintegrato? No, un direttore no, perché i direttori non fanno... Il rapporto è fiduciario, e un conduttore di una trasmissione in proprio non è equiparabile... No, a parte che Santoro direttore. Credo che sia un direttore, credo. Dirige una struttura pari, viene pagato molto di più, no, che cosa deve... vorrà dirmi mica che è comparabile a un usciere. Ma se fosse... come posizione giuridica. Se fosse Masi l'avrebbe licenziato lei, Santoro? No, io avrei applicato una sanzione pecuniaria consistente. Tipo? Ma tipo prende 600.000 euro l'anno? Sì. Se ne prende 100.000 di meno soffre? Ma che ne so, magari sì. 100.000 al colpo, se uno si comporta male, cioè se uno non fa gli interessi dell'azienda per la quale lavora, è giusto che l'azienda lo sanzioni. Cioè lei 100.000 euro. Io avrei applicato una sanzione pecuniaria, 100.000 euro senza tanto clamore. Questa devo dire è molto divertente. Io però al mio fianco c'ho un ex consigliere della Rai. Chi è? Ho un consigliere della Rai che è qui al mio fianco, si chiama Marcello Veneziani. Oh, signor Veneziani, buonasera. È stato consigliere della Rai con l'annunziata. Se vuoi te lo passo, mi ti fa no col ditino, però io lo forzo. Lo vuoi? No, ma su Santoro, così secondo me. Su Santoro, un flash su Santoro vuole, Cruciani. Pronto, buonasera. Buonasera, Veneziani, come sta? bene, bene, lei. Scusi, beh, se la facciamo questo ingresso così al volo, questa cosa un po' garibaldina, ma noi siamo, come sa, insomma, un po' così sui generis. Senta, ma lei fosse stato in Masi, cosa avrebbe fatto? Qui c'è una discussione, sanzione pecuniaria, quella sospensione come c'è stata, licenziamento, lei che sceglie? Ma io credo al massimo la sanzione pecuniaria, il resto è stato un grande spot favorevole a Santoro, insomma. Cioè Santoro io credo debba moltissimo a tutti gli editti bulgari, alle dichiarazioni di Masi e così via, quindi Santoro è diventato un mito grazie proprio a coloro i quali annunciano provvedimenti contro di lui che poi puntualmente rientrano, quindi credo che sia uno dei grandi equivoci nazionali il martirologio di Santoro. Dunque, sanzione pecuniaria, io voglio dire, siccome moltissime persone, lei è stato consigliere d'amministrazione, nel consiglio di amministrazione della RAI, altre persone, dicono, beh, noi non avremmo sospeso, ma chi alla fine, ma chi è che vuole del centrodestra? Lei non è che la sto mettendo nel centrodestra, però insomma è stato consigliere d'amministrazione in quota centrodestra, diciamo, no, Veneziani, insomma, chi è che ha voluto questa sospensione, a parte Masi, chi l'ha voluta? Berlusconi? Mi dica la verità, Veneziani, l'ha voluta Berlusconi? Ma, non ho idea, credo che abbia avuto comunque qualche avallo politico, cioè immagino che Masi abbia preso questa decisione con qualche conforto, ora non so chi, ma chiunque sia stato ha sbagliato non solo in termini proprio di rispetto della libertà, diritto di opinione, eccetera, ma proprio di efficacia politica, insomma, ha fatto un autogol, come se ne sono fatti tanti su Santoro, devo dire, tantissimi. Va bene, grazie, abbiamo grazie. La pubblicità, poi i titoli dei TG, a tra pochissimo, torniamo anche a questa Acquadagni, 800 24 00 24. Bene, 21 minuto, siamo qui con la Zanzara, 800 24 00 24, TG1, titoli. Il capo degli ultra serbi chiede scuse e domani sarà davanti al giudice, altri 19 fermati alla frontiera, il Viminale Belgrado ha sottovalutato. Maroni, la manifestazione FIOM di sabato è a rischio infiltrazioni di gruppi violenti, il sindacato si difende, sarà pacifica. Sì del Consiglio dei Ministri alla legge di stabilità, la vecchia finanziaria, Tremonti, ora sviluppo e riforma fiscale, ancora polemiche sull'università. In coma irreversibile la rumena picchiata nel metro a Roma dopo una lite per futili motivi, l'aggressore aveva scritto una lettera di scusa. Delitto di Meredith, Raffaele Sollecito chiede di parlare al telefono con Amanda Knox, ma lei non vuole, scontrano la pena in due carceri diverse. Clooney sposerà la Canalis, un reporter americano lo chiede per l'ennesima volta a George. L'attore tace e il tormentone continua. Super Enalotto, questa sera estrazione da sogno, oltre 162 milioni di euro, fra i giocatori anche tanti immigrati che sognano di sbancare il jackpot per poter restare in Italia. Durante il TG1 vi daremo i numeri vincenti. Vabbè, Parenzo, il titolo del TG1 su Canalis, Clooney, eccezionale. Incredibile. Minzolini ancora una volta. Adesso tu, tu esageri come al solito. Ma non è possibile. La roba della Canalis lo leggo su Novella 2000, su chi? No, sul TG1, la rete ammiraglia del nostro paese. Stracquadagno, lei che dice? Subia. Ha ragione Parenzo o no? L'ultima notizia dei titoli. A me quando Parenzo fa il moralista e poi nei suoi programmi faccio il moralista, io lo trovo. A me piace pure la Canalis. Un po' grottesco, questo moralismo, per cui il TG1, cioè il più ascoltato... Ma il TG1, Giorgio, tu sei anche giornalista, è il TG1 che parla della Canalis. Ho capito, parla di Clooney e la Canalis, cioè uno degli... Beh, insomma, adesso non c'era notizia, non c'era notizia. Ma che notizia è? Non c'è notizia, non è che dice si sposano è una notizia. Un cronista americano... La notizia è che... La curiosità del pubblico su queste cose esiste. La cronista gliel'ha chiesto, lui non ha risposto e l'ha fatto apposta per rilanciare l'ascolto su di sé. È un po' come Masi con Santoro. Dai, ma è menzo su. No, oggettivamente questa cosa oggettivamente della, non c'è notizia. Poi io sono meno che significa, lo dico anch'io. No, dice uno come Cruciani che sicuramente non è tacciabile di essere un uomo della FIOM. No. No. E quindi no, però io liberazione Cruciani. No, no, per la FIOM adesso, Parenzo, non facciamo di Terbo un fascio. Io no, dico che abbiamo appena messo sul banco degli imputati Santoro. E abbiamo sentito il telegiornale di un attimo. Dobbiamo stabilire cosa ha sacrificato. Ha sacrificato qualcosa? Adesso cioè, questo se non lo so. Una nota di costume di colore di alleggerimento. Io non ci vedo nulla di grave. No, io anch'io non ci vedo nulla. Anch'io non ci, no, anch'io non ci vedo nulla di grave, per ha carità. Ha sacrificato qualche notizia importante. Però questo non lo so. Però l'ultima dichiarazione di Bersani, ce ne faremo una ragione. Scusa. No, io non lo so, adesso la cosa di Maroni sulla corteo Fiume manifestazione a rischio incidenti c'era nei titoli del TG1, adesso non stiamo... Sì, c'era, ma certo che c'era. Pazzesco. Era la terza notizia, subito dopo, la seconda notizia. Adesso non sono stato attento. Ecco, cioè, allora, pensare... la prima sulla serie, sul tifoso serbo, sì, che è stato che chiede scusa. Il tifoso serbo chiede scusa. Tutti chiedono scusa poi. Sulla non c'è più religione ormai. Poi il Consiglio dei Ministri. Poi c'era qualche altra importante notizia di cronaca che è solo in coda come ultima notizia. No, penultima. Se non terz'ultima. Qual era l'ultima? No, non era quella comunque, l'ultima. Era quella, la penultima. L'ultima sarà stata risposta. Comunque il problema è che non c'è la notizia, cioè, è una cosa che era oggi su tutti i siti dei grandi giornali, sì, e internet. Perché erano tutti i siti se non c'è la notizia? No, i siti sì, perché ci sono tante cose, ma insomma non è tra i primi titoli. Se io vado su Repubblica.it, Sole24ore.it e Corriere.it, questa roba qui non è nemmeno tra ventesima notizia. Cioè, ma poi qual è la notizia che la Canalis non si sposa e non conferma? No, veramente è Clune che non conferma. Ma va bene, Clune non conferma e non smentisce. Io capisco che Parenzo guarda più la Canalis e anch'io, come dire. È naturale questo. Ma è una notizia logica, Clune che non conferma cose. E non smentisce. Ma non facciamo tutto sto moralismo. Il TG1 non è mica... la cattedrale del giornalismo, è un telegiornale in concorrenza con altri 6 o 7 i quali avranno tutti lo stesso servizio. Poi non c'era la vicenda Marcegaglia Panorama, di cui qui non parliamo assolutamente, per carità, ma non c'era questo, non c'erano tante cose, l'Aquila, gli albergatori per esempio, il governo non paga o sospendiamo i servizi per i terremotati, beh non c'erano un po' di cose, volendo si trovano le notizie da mettere. Siccome non è questo il piano, no, certo, per risolvere tutto, posso dire, c'è un'offerta a quest'ora, ci sono 3 telegiornali. Ecco, appunto, sentiamo come scaletta le notizie di giornata Mentana. Via libera del governo alla finanziaria di Tremonti, che dice ora lo sviluppo, ma serpeggia malumore tra alcuni ministri. Galan se ne fa portavoce, non ci sono soldi, una tragedia. I tagli riguardano soprattutto la cultura e l'università. Tremonti promette più soldi a fine anno. E mentre a Montecitorio protestano prof e studenti, stesse scene, stessi tagli in Grecia, dove i precari hanno occupato l'Acropoli. Allarme del ministro dell'interno in vista alla manifestazione dei metalmeccanici FIOM di sabato. I servizi ci dicono che c'è il rischio di incidenti e infiltrazioni dall'estero. Il PD avverte, così si alimenta la tensione. Masi come Ivan, sulla prima pagina del manifesto Vauro disegna il direttore generale della RAI così, e l'anteprima di Aldo Zero di stasera, Santoro unito va in onda e promette nuovi attacchi. Riuscito, come vedete, a Monza, Carla, 52 anni, la prima paziente italiana alla quale sono state trapiantate entrambe le mani. Eccezionale intervento è stato eseguito nella notte tra lunedì e martedì scorso all'ospedale San Gerardo di Monza. Beh, insomma, non c'era questa notizia, eppure Mentana è uno che... Vediamo se sarà nel giornale. Però voglio dire, lasciamo perdere questa questione, la vicenda della vignetta di Vauro. Sì. L'amoroso, allora, la canale non smentisce, non conferma. Dai, su, smetti un attimo, abbiamo chiuso con questa storia, chiusa. Vicenda chiusa, no, stava dicendo clamoroso, la canale non conferma e non smentisce, ultimi aggiornamenti. Vabbè, capisco che avendo un contratto con la rete concorrente deve fargli propaganda, contenga. Perché devi buttare tutto in banca, onorevole? Scusa, ma non è questo. Allora, però, scusatemi. Perché tu sei facilmente scopribile. Allora, il manifesto oggi. Il manifesto oggi. Non dipendo da Mentana. Ho capito. Il manifesto oggi in prima pagina. Smettetela con questa storia di chi è dipendente di chi. Perché chi ha rivolto lei sa benissimo, Straguadagno, che una volta. Abbiamo criticato in maniera molto forte. Io non sono dipendente, sono servo, no? No, abbiamo criticato in maniera molto forte quando Franceschini per 2 volte di seguito a Ballarò ha detto lei è dipendente, quello là è dipendente di Berlusconi. Sto veramente scherzando. Spero che si capisca. Manifesto in prima pagina. Masi vestito da ultraserbo come Ivan, sospensioni. Arrestato l'ultraserbo che ha fatto sospendere la partita al Marassi. Ancora a piede libero l'ultraserbo che ha fatto sospendere Nozera la Rai. Io devo dire la verità. Il danno la beffa. Eh? oltre il danno la beffa, cioè? Magari l'ha pure pagata sta vignetta. In che senso l'ha pagata? Ah, perché Vauro, perché Vauro ha contratto. No, però non ha pagato la vignetta di Vauro sul manifesto, quella gliele paga il manifesto. Però paga Vauro, la paga Vauro, lei dice. Come l'apertura di anno zero questa. Quindi in qualche misura la paga indirettamente. Questa è sicuramente l'apertura di anno zero? Oltre il danno la beffa, si è fatta una sanzione pecuniaria. Perché questa qua è l'apertura di anno zero? Sì, così è stata presentata. Presentata da Mentana? Nei titoli di Mentana. Sì. Ecco l'apertura di Ma anno lei, zero. Lei si scandalizza per una cosa di questo tipo? È da querela secondo lei oppure la satira? No, per carità di Dio. Questa qui è, cioè, può far ridere o può non far ma ridere. Stomasi non ne fa buona una, secondo me, non ne azzecca una, secondo me. Perché non lo cambiano Stomasi? Ha sbagliato. Guardi, lei dice un Santoro, lei lo cambierebbe? Io non faccio parte del consiglio di amministrazione della RAI e non ne potrei far parte. Lo cambierebbe o no, Masi? È adeguato, quindi, o inadeguato, secondo lei? E quindi non mi pronuncio. No, si pronuncia, anche è perché, adeguato o no? Anche perché non faccio parte neanche della commissione di pubblicità. D'accordo, ma secondo lei, appunto, dall'esterno... Ma secondo lei, non le ho già dato una risposta prima. No. Avrei già fatto una sanzione pecuniaria. No, ma me lo dica quindi direttamente. Quindi vuol dire che ha fatto una scelta diversa. D'accordo, avrebbe fatto una scelta diversa. Ma secondo lei, visto... Secondo me, la direzione generale della RAI dovrebbe avere più polso. E avere una rotta più precisa. A meno che c'è un'interpretazione che a Parenzo potrebbe piacere. Cioè? Allora, Santoro fa da tutta la vita la stessa trasmissione e dopo un po' può venire anche a noi, anche sui stessi fan. Cosa di meglio che un finto provvedimento di sanzione, che sanzione non è, per rilanciarlo con uno spottone che oggi porta in alto gli ascolti della RAI? A parte che non è che fosse andato male. Non ce n'era bisogno, però. Non è che fosse andato male. In teoria, ma non ce n'era bisogno. È ovvio che è una battuta. No, però è no, la battuta è sempre una battuta, stracquadagno. Però la cosa seria che le voglio chiedere è questa: lei pensa che Masi sia inadeguato o no? Io penso che la RAI tutta non funzioni. Ma Masi è la persona giusta? Una direzione generale migliore potrebbe esserci, sì. Potrebbe esserci. È inadeguato, certo. Insomma, posso dire che è inadeguato o no? Si può ma dire. Dica, inadeguato a cosa però? Devo stabilire. No, è lei lo dice, io voglio attribuire a lei. Lei mi fa la domanda, mi mette in bocca una risposta, guadagno da un titolo, anche che io la completi. E non è un puzzle. No, ho capito, io lo completo, faccio io un po'. Detto che è inadeguato. Faccio un po' Klaus Davi, mi faccia fare cose. Userei un altro serio. Si potrebbe dirigere meglio la RAI, secondo me. Si potrebbe dirigere meglio. Però questo è un parere di privato cittadino. No, beh, sono privato cittadino. E allora le ho ripeto che come parlamentare non mi pronuncio. Senta, anche se lei ci ha spiegato benissimo che cos'è il famoso metodo boffo, lei ormai è famoso per questo. Sta qua, lei sa come funziona la comunicazione. No, sono famoso per molte altre cazzate. Sì, lo so, però ormai negli ultimi mesi lei è famoso per questo. E sarà stato... Ho sbagliato, dovevo dire metodo Santoro. Mi rendo conto. E quale metodo Santoro in questo caso? La sospensione di 10 giorni mi pare un grande metodo. No, metodo che Santoro applica nei confronti dei suoi avversari politici. Cioè li piglia e li strapazza come tappeti. Se avessi detto metodo Santoro non sarei stato criticato. Va bene, grazie, buona serata. Grazie, grazie, a lei, grazie buon lavoro. Stracquadanio 20:12, pubblicità. Caro Parenzo, però l'uscita di Stracquadagno sulla sanzione pecuniaria a 100.000 euro non era male, eh? Sì, quella poteva essere una via d'uscita interessante, una provocazione, ma anche non so se si possa fare concretamente. Tu sei fissato. È autunno, le stagioni non sono più quelle di una volta. Bam, barabà, babà. Questo è il TG1, dici, tra i titoli del TG1. Notizia del TG1. Attenzione, gli uccelli volano. Devo dire la verità, anch'io ho notato nei titoli, infatti te l'ho detto subito, appena sentiti questa, non dico incongruenza, insomma, stonava la notizia sulla Canalis avvicinata, anzi no, su Clooney avvicinato da un cronista americano, il quale Clooney non risponde alla notizia, se sposa alla domanda se sposerà o no la Canalis, farà diventare un titolo TG1 oggettivamente. Il TG1 l'ha diretto anche un grande uomo come Carlo Rossella. Sì. Ma Carlo Rossella l'avrebbe messa, forse l'avrebbe messa. Ma Rossella ha stile. È brutto, cane non mangia cane, quindi voglio dire, poi il direttorissimo Minzolini non è impossibile attaccarlo, voglio dire. Però a me non me ne frega niente, ci faccio una considerazione giornalistica, non è una notizia quella roba lì messa nel telegiornale, vai comunque, cosa vuoi? Cosa vuoi fare? Dove le sei? Le stagioni non sono più quelle di una volta. Sempre a Gioia del Colle? A Gioia del Colle sto andando a mangiarmi le orecchiette. Le orecchiette pugliesi, credo. Adesso stiamo aspettando che ci vengano a prendere. Quando ti vengono a prendere? Spero che sarai seduto prima della chiusura della trasmissione. Così voglio parlare con il proprietario del ristorante dove andrete e mi voglio fare spiegare la sua specialità. Volentieri. Adesso spero di riuscire a fare questo collegamento in diretta col ristorante. Allora, da qui in poi solo ascoltatori alla Zanzara. 800 24 00 24. Da adesso in poi, dopo il traffico, grande volata con tutti gli ascoltatori. E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Dal purgatorio, che qualcuno segnala che non esiste più per volere del Papa, ma noi facciamo finta che esista, dal nostro purgatorio abbiamo raccolto questa voce, una voce che voi tutti conoscete, una voce familiare per gli ascoltatori della Zanzara, quella di Luca Telese, che però, trovandosi in purgatorio, fa cose bizzarre, come per esempio intonare un pezzo di Eros Ramazzotti. Nato ai borghi di periferia, e devi guardare in camera, sì, sì, vai. Dove i tram non vanno avanti più. Pianista, dove la l'aria sa. È popolare. Che guardare in faccia la realtà e dove impara Parenzo, quanto ti manca? Parenzo? Mi manca quasi, diciamo, un po' meno di mia moglie, anzi un po' più di mia moglie, un po' meno di mia suocera. Più di tua moglie? No, scusami, un po' meno. Sei confuso. Certo. Un po' meno di mia moglie, un po' più di mia suocera. Un po' più di tua suocera. Dal purgatorio le voci purgatorio. Di Luca Grande. Telese. 20:20, 800 24 00 24. Michela da Monza, l'abbiamo ripescata, c'era sfuggita per tutta la sera, ma adesso grande volata con gli ascoltatori fino alle 21. Parenzo, se devi fare degli affari tuoi, la resta sempre collegato, eh. Non temere, siamo qui. Sono sempre collegato, vi ascolto. Pronto? Michela, dica. Pronto, buonasera Cruciani, che piacere sentirla finalmente. Michela, ci siamo rincorsi. Su. Ci siamo rincorsi, esatto. Dunque, io ho perso un pezzetto di trasmissione, quindi non so che cosa avete detto a proposito di Sant'Oro. Tante cose, è due giorni che parliamo di Sant'Oro. Ci sta che io mi ripeta a questo punto. Intanto volevo sapere una cosa, a proposito di Telese, perché nel momento in cui avete parlato di Telese è caduta la linea. Ma sì. Telese è stato epurato. Epurato? È in purgatorio, che epurazione? È in purgatorio, vabbè. Per ma epurato mi sembra una parola grossa. Epurato che vuol dire? No, epurato no, vabbè, comunque è in purgatorio. Non può intervenire per l'intervento che ha fatto su Confindustria, sulla Marcia Galia, quando ha detto che era una cretina. Michela, attenzione, qui lei sa benissimo, Michela, che noi siamo una casa di vetro, si può parlare di tutto. Allora non mi costringa a parlare di questo. Noi ci teniamo una piccolissima percentuale di cose che non si possono dire. Per cui lasci perdere. C'è mio marito che mi sta dicendo che nelle aziende serie, nelle quando aziende... si offendono i direttori, sì. Si va a casa. Si e va a Santoro casa. E questa volta l'ha fatta grossa, nel senso, guardi, io Santoro, pur non condividendo una parola di quello che lui dice, però lo guardo sempre. Sempre, quindi sono sì. Mi piace come conduce la trasmissione, sono contraria a tutto quello che dice, quindi mi dispiace anche che per due settimane, eventualmente, non so poi come andrà a finire, di non poterlo ascoltare. Fatto sta che se uno si permette di fare certi tipi di interventi, la punizione ci vuole. Sì, vedi, ci vuole una punizione, però no, Telese non c'entra niente. No, ma non c'entra niente, sono cose molto molto molto molto molto molto molto molto molto diverse. Anche perché io non so che tipo di contratto. Ma non c'è nessuna cosa, non c'è nessuna epurazione, cioè non c'è nessuna epurazione, non c'è nessun problema, non è successo niente. No. Sono successe delle cose e c'è questo purgatorio, punto, basta. Questo purgatorio. Questo purgatorio, ma però dopo quell'intervento, guarda caso, non è che deve essere per forza collegato a quello. E io non so nemmeno di che intervento lei parli, non me lo ricordo nemmeno, mi è scomparso dalla mente, l'ho cancellato. Quando lui l'ha detto, ho detto ai ai ai. L'ho cancellato io, mica io ho cancellato, ho fatto un reset totale. Ma di tutto. Come nei regimi, niente, non so, mai esistito. Tu hai sentito qualcosa, Parenzo? No, io non ricordo niente. Io pure non ricordo niente, Michela. Anche lei, Michela. Comunque io sono d'accordo con Massi. Nonostante questo comporterà che stasera lui farà una trasmissione in cui diventerà ancora più martire di quello che già è, nonostante tutto sono d'accordo, perché Però mi scusi, io non sono d'accordo, Michela, lo sa perché? Per una cosa molto semplice, si poteva qui è una questione che non riguarda i rapporti tra il capo azienda e un suo, diciamo, sottoposto, perché da quel punto di vista allora voglia provvedimenti del genere che ci devono essere alla RAI, il punto non è quello, il punto è che c'è una guerra da anni tra Berlusconi e Santoro. Questo è il punto. Masi si fa interprete di una volontà che è quella di Berlusconi o chi per lui, eccetera, eccetera, e la applica perché viene continuamente spinto a fare qualcosa. E di questo si tratta. Ma capo azienda, d'argento, questo voglio dire. Come, scusi? Santoro gliele offre su un piatto d'argento. Sì, ma dai, questa cosa del vaffanbicchiere potrà essere stata una scivolata, d'accordo, ma insomma non è questo il punto, insomma vaffanbicchiere, adesso non esageriamo, insomma per carità, è un insulto perché poi significa quello che significa. Ma insomma, non è per questo che vengono presi i provvedimenti. Si volevano prendere provvedimenti su Santoro anche in assenza di un insulto nei confronti del direttore generale, diciamo la verità. Insomma, questo è il punto. Parenzo, che stavi dicendo? Ma no, che si dimostra Masi un cattivo direttore generale, cioè non fa gli interessi dell'azienda, fa gli interessi di Berlusconi, che per carità è legittimo, siamo una casa di vetro e possiamo dirlo, ma è così, cioè Santoro fa ottimi ascolti, la pubblicità arriva alla RAI grazie agli ascolti di Santoro, la signora che ha appena chiamato dice a me Santoro fa schifo, non mi piace, non ne condivido le idee ma lo guardo perché tecnicamente è bravo. Signora, dice, la maggior parte delle persone che guardano Santoro poi la pensano come la signora, non è che condividono necessariamente la però linea lo sai, editoriale. Sai, Davide, ci sono moltissimi ascoltatori che scrivono dicendo, ma insomma, alla fine, se uno manda a fare il culo il proprio capo azienda, qualche provvedimento ci deve essere. Cioè, su questo sì, dopodiché bisogna vedere se è indispensabile o no per quell'azienda. Cioè, se Santoro è utile a fare profitti al servizio pubblico, tu sai bene però da questo punto di vista che tutti sono indispensabili e nessuno è necessario. No, quello certo. Indubbiamente gli ascolti su Santoro è l'unico che riesce a fare quegli ascolti con l'informazione. Sì, però insomma ho capito. Però, Brunetto ha perso qualche punto ultimamente in seconda serata. Bruneo, come dice Dago Spia. Bruneo. Ha perso qualche ascolto. Buonasera, la pubblica di Porta a Porta. Ha perso qualcosa, no? Sì, adesso non lo so, non seguo molto questi dati. Però voglio dire, gli addetti ai lavori ogni tanto lo segnano. Lui è uno di quelli che ancora i numeri in prima serata li fa. Ti stai dirigendo verso le orecchiette? Sono verso le orecchiette, si sono in un bellissimo pulmino con appunto l'ex consigliere della RAI, con Pagliarini, con alcuni imprenditori della Confapi, e stiamo andando direzione orecchiette, diciamo. Direzione orecchiette, vabbè. Orecchiette con cime di rapa, mi auguro. Con cime di rapa oppure con altre cose, vediamo. Insomma. No, io voglio quelle con le cime di rapa. Tu vuoi le cime di rapa, vabbè, ok, ecco, l'ho capito. Salvatore da Palermo, buonasera. Sì, buonasera. A tutti sono utili, nessuno è indispensabile. In realtà è questo il coso: tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Questa è la, diciamo, la massima. Io ho un po' reinterpretato, diciamo. Tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Vabbè. Minzolini è più inutile di altri, diciamo. Con sto Minzolini che sei una fissazione tremenda. Salvatore da Palermo, buonasera. Buonasera. Volevo un po', insomma, dire che rimango sbalordito dalla capacità dell'onorevole Stracquadanio di giustificare il titolo di Minzolini. potrei dire quando dice, insomma, che bisognerebbe vedere quale altra notizia è stata tagliata, che non lo so, magari oggi qualcuno è caduto da un'impalcatura o ci sono stati dei licenziati. No, sicuramente c'erano altre 100.000 notizie che si potevano mettere al posto di quelle, su questo non c'è dubbio, al di là degli operai, eccetera, o di cose che riguardano il mondo del lavoro, le notizie e c'erano. Non capisco il motivo per cui si debba alleggerire, ma alleggerire cosa? D'altro canto, voler vedere mettersi nei suoi panni, cosa dobbiamo alleggerire? Non è una realtà così bella come la nostra. No, però Salvatore, mi scusi, adesso ognuno tra l'altro fa il proprio telegiornale come vuole. Se pensa che quella notizia lì abbia un pubblico. No, questo è un telegiornale pagato dagli utenti. Mi scusi, no, ho capito, ma c'è la responsabilità del direttore che mandi in onda con i titoli, i servizi, eccetera, e poi sarà, come dire, in teoria il mercato a decidere se quel prodotto va bene oppure va male. Insomma, questa mi sembra una regola aurea. O no? Ma non è il mercato che decide la sorte della RAI, mi scusi. No, purtroppo la RAI è molto sensibile a queste cose, agli ascolti, al mercato certo. O al governo. No, ma che c'entra? Quello è un altro discorso. Sto dicendo, non è che la RAI. Vabbè. Comunque risentiamolo sto titolo, non è che la RAI vive fuori dal mondo, ma è diventata, cioè, più o meno è come la sua concorrente, la sua principale concorrente, la televisione commerciale. Via. Clooney sposerà la Canalis? Un reporter americano lo chiede per l'ennesima volta a George. L'attore tace e il tormentone continua. Il tormentone continua, questo era Giorgino. Parenzo, dove sei? Sempre nel pulmino, siamo. E non sei arrivati? Dove? In Bari, Michele. Non è Los Angeles. Non è Los Angeles, è la Puglia, però un po' di strade bisogna farlo. Qui si rispettano i limiti di velocità, poi non è che facciamo per le strade pugliesi come dei pirati, no? Vabbè. Poi adesso posso chiedere all'autista che direttore, scusi, a che andatura andiamo qui? Ecco, a 100 km, per quanto prevediamo. Non mi sembra che a 100 si possa andare, però abbi pazienza. A 100, come no? A che ora prevediamo di arrivare? No, a 100 dove? In mezzo alla città, non ho capito. In mezzo alla città a 100 non si può andare. 10 e un quarto d'ora ci vuole. Mezz'ora ci vuole. È una cosa lunghissima. Vabbè, lo so. Borsa, ci sentiamo dopo. Eccoci qui, 20:35, 800 24 00 24. Devo dire la verità, caro Parenzo, in questa trasmissione non abbiamo mai lesinato critiche nei confronti di Concita De Gregorio per varie sue uscite durante le trasmissioni televisive e non solo. Devo dire che l'editoriale di ieri di Vittorio Feltri e successiva reazione della stessa De Gregorio, che ha minacciato, anzi no, ha detto che la cosa finirà in tribunale, mi ha sorpreso in quanto a eccessiva volgarità, diciamola tutta. Per chi non l'avesse notato, ho letto, devo dire che me ne sono accorto dopo io, perché era in fondo all'articolo e insomma, mi ero soffermato più su altre cose. Però io capisco la critica feroce, la critica anche ruvida da parte di Feltri. C'è un limite che non va mai oltrepassato, e secondo me questo limite un po' è stato oltrepassato. Ve lo rileggo. Brevissime ultime righe dell'editoriale di ieri del giornale. Comprendo che la signora De Gregorio non abbia dimestichezza con le volgarità dei bilanci, cioè con i conti della serva. Se però avesse il coraggio e lo stomaco di abbassarsi a chiedere un parere a chi conosce i drammi delle imprese editoriali, scoprirà che il risanamento del giornale, vabbè, non è opera di mantenuti ma di giornalisti volenterosi. E qui c'è una critica nei confronti di alcune affermazioni fatte dal direttore dell'Unità. Solamente un cretino poteva immaginare che in 4 mesi la nostra direzione fosse in grado di assorbire 22 milioni a rotte di disavanzo. A proposito, siccome si dice che la mamma dei cretini è sempre incinta, aggiungeremo che sarebbe ora prendesse la pillola e in certi casi estremi è ammesso perfino l'aborto. Ora, io immagino che il riferimento finale sia per la De Gregorio. L'avevi notata te questa cosa, Davide? Sono sincero, l'avevo letto velocemente e non mi aveva fatto pensare subito a questo, però ora che sì, effettivamente. No, c'è un riferimento chiaro. Lo avevo letto velocemente, no, quindi ma anch'io, non mi ero anch'io, soffermato, anch'io, anch'io. Però il riferimento è chiaro, ma e quindi è veramente di buon gusto. Ma il problema è che ormai la notizia non sono più i fatti di cronaca politica e di attualità, ma la notizia sono i giornali stessi. Sono i giornalisti stessi, cioè, sì. I giornalisti sono la notizia, cioè oggi Santoro è un media event per cui tutti aspettano quello che dirà Santoro, non quello che accadrà in quella trasmissione. Oppure non quello che accadrà in Parlamento dove si discute magari un provvedimento di legge. Oppure domani la notizia è: ma come risponderà la De Gregorio all'editoriale di Feltri sul giornale? Cioè, i giornali sono diventati sono il centro della notizia. Questo per l'assenza della politica, per l'assenza totale della politica, diciamo. Per l'assenza della politica, forse noi qualche responsabilità ce l'abbiamo, però soprattutto è l'assenza della politica, perché voglio dire. No, ma è così, è così. Però ormai noi, i giornali sono diventati notizia. Le guerre tra i giornali sono: cosa scriverà domani il Fatto? Come risponderà la De Gregorio a Feltri? Cosa ribatterà Feltri alla De Gregorio? Cosa dirà Santoro stasera? E basta. Luca da Roma, noi ci divertiamo su queste cose, naturalmente, però effettivamente se poi andiamo a fare un'analisi è che mancano proposte politiche forti su cui confrontarsi, non c'è dubbio. Luca, dica. Eccomi, buonasera. Io sono un po' arrabbiato. Con chi? Allora, guardi, le ragioni sono tante. Comunque, in particolare questa sera mi concentrerei sulla questione TG1. Sì. Allora, io guardo il TG1 da quando sono ragazzino. E premetto che, essendo di sinistra, ho guardato il TG1 sempre come un giornale autorevole, anche se non è proprio un telegiornale che ha una tradizione di sinistra. Quello che si può dire oggi è che con l'attuale direzione, che come dice giustamente, non mi ricordo se lo diceva prima Parenzo, ma comunque se non lo dice lo dico io, e cioè che questo direttore risponde un po' come il direttore generale della RAI ad un padrone e non agli interessi del servizio pubblico, data questa situazione, ormai quello che conta non sono le notizie, perché ti giuro, dà sempre meno notizie. La questione della Canalis è un esempio, ma potremmo farne anche altri. Ci sono i cosiddetti grandi servizi del TG1, come li chiamo adesso io, in cui per esempio si danno 4 minuti d'estate alla qualità del gelato, che può anche essere un servizio, ma non è certo una notizia. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che per esempio quel direttore, anziché dare notizie, si mette a fare degli editoriali in cui tira per la giacchetta il capo dello Stato. Quello che io voglio dire è questo: il TG1 oggi, e questo è un dato, perché quello che ho detto fino adesso io potrebbe essere considerato opinabile, i dati del TG1 dicono che il TG1 sta scendendo regolarmente di diversi punti e si sta distruggendo un'istituzione nel mondo dell'informazione. Questo è un punto. Sì, io non sarei così sulla questione degli ascolti. Scusi, Luca, io sulla questione degli ascolti non sarei così catastrofico. Adesso, come sai, gli ascolti possono essere tirati e stiracchiati a seconda delle convenienze, analizzati sotto diversi punti di vista. Adesso io probabilmente io ci sarà. Menzolini fa benissimo a fare i suoi editoriali, è un direttore, perché non deve fare i suoi editoriali? Perché non deve portare un punto di vista che nel paese c'è? Allora? Questo è legittimo, anzi va benissimo. Kojak, lì come si chiamava? Curzi, non faceva i suoi bellissimi editoriali? Lucio Manisco non diceva: qui dal grande Satana a New York e tutto a voi studio? Quindi è legittimo avere un punto di vista, il problema sono le notizie, cioè lì mancano le notizie. L'editoriale va bene, faccia anche un editoriale al giorno, è il suo TG. Sì, no, ma capito. Metta le notizie. Luca vuole concludere, Luca. Se si tira il capo dello Stato per la giacchetta rispetto ai suoi doveri costituzionali, si dicono delle cose. Vabbè, esatte, lì non era tirare il capo dello Stato per la giacchetta, scusi, era dire no? Se vabbè, come era no? L'opinione, era l'opinione. No, però mi scusi, Luca, lì era l'opinione di Minzolini che diceva: se cade questo governo si va alle elezioni. Questa è l'opinione di Minzolini. Ma la Costituzione non dice questo. Ho capito, ma quella era l'opinione, anch'io la penso così, non è che violo la Costituzione, mi scusi. Comunque, aspetti, volevo finire il ragionamento. Quello a cui stiamo assistendo oggi è che due signori che rispondono ad un padrone e non a degli interessi pubblici, cioè il direttore generale e il direttore del TG1, stanno sovvertendo il senso, diciamo, dell'interesse dell'azienda. Sì, diciamo, Luca. Aspetti, però, sì, ma non è mica una novità che i partiti contano più dell'interesse pubblico, e poi bisogna sempre definirlo questo interesse pubblico. Non è mica la prima volta che succede. Magari adesso ci sarà c'è uno che è più realista del re, che riferisce direttamente a Palazzo Chigi in maniera un po' più pedissequa rispetto a prima, ma non è una novità che il punto di riferimento siano i partiti piuttosto che il cosiddetto interesse pubblico e l'azienda di Stato. Insomma, adesso non... Sai una volta cosa si diceva? Hanno assunto 4 democristiani, 3 comunisti, 2 socialisti e 1 bravo. Adesso non assumono neanche uno bravo. Questo è il primo punto. Va bene, Luca, grazie. Antonio, provincia di Varese, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Senta, a parte che stanotte non dormirò, perché dopo che ho sentito la notizia della Canalis penso che sarò agitato tutta notte, volevo appunto dire che riguardo allo stadio di Genova, eccetera. Io devo dire una notizia che è appena uscita, molto, molto grave, diciamo, una notizia che viene battuta dall'agenzia ANSA. L'imprenditore di Trento Fabrizio Collini, 56 anni, è recentemente coinvolto in un'inchiesta della procura trentina su presunte tangenti in appalti pubblici, si è suicidato gettandosi da un viadotto dell'A26. Non ricordo la vicenda, ma ripeto, la notizia è questa: è stata battuta dall'agenzia ANSA. L'imprenditore di Trento Fabrizio Collini, 56 anni, si è suicidato gettandosi da un viadotto dell'A26. Va bene, Antonio, che stava dicendo? Cioè, va malissimo in realtà, ma insomma va bene per continuare il discorso. Antonio? Sì, no, prima ho preso dalla radio che c'è questo questa lettera di questi bambini perquisiti allo stadio, e mentre sono entrati con fumogeni, bastoni, catenacci e tutto. E in effetti io ho un ricordo della prima volta che mio papà mi ha portato allo stadio, eravamo bambini, io e alcuni amici, e non esistevano ancora tessera del tifoso, tornelli e compagnia bella, eppure non abbiamo potuto portare quella che era la merenda che mia mamma aveva preparato, per cui le Coca-Cola, la lattina di Coca-Cola piuttosto che il panino. Sì. Per non buttarle via, mi ricordo che l'abbiamo bevute fuori dallo stadio, no? E questo mi fa, più che sorridere, mi fa incazzare, perché se poi troviamo persone delinquenti che entrano con tutto allo stadio, quando facciamo di tutto e di più per evitare che ci siano degli scontri, che ci sia della violenza, dico, in quel caso lì i controlli non sono stati fatti alla legge. Ma infatti, Antonio, no? il punto è proprio questo. Cioè, io su questo credo che qualcuno debba rispondere a Genova. E se non risponde lui, sarà l'UEFA, che è l'organizzazione del calcio europea, a sanzionarci. Perché insomma, vedere un energumeno abbarbicato per un'oretta circa con tanto di pinze a tagliare la rete e persone che sono entrate armate di tutto punto dentro lo stadio, perché evidentemente le perquisizioni, se ci sono state molto superficiali, io credo che non sia stato un bello spettacolo per l'Italia. Naturalmente poi la responsabilità principale è dei teppisti, non è quella, è quella di chi li ha fatti arrivare, eccetera eccetera, e soprattutto poi degli autori materiali dei disordini. Però insomma, io credo che qualcosa di più dal punto di vista del filtraggio, del controllo, si potesse fare. Traffico. Per l'ultima parte della Zanzara, sulla voce di Patrizia Daddario, che ha inciso questa canzone sulle note di Carosone, direi di andare in provincia di Napoli da Mimmo. Buonasera. Buonasera, signor Cruciani, mi sente? La sento, dica pure. Pronto, io la sento molto lontano. Senta, innanzitutto le volevo fare i complimenti per la trasmissione, poi vorrei fare una considerazione sull'informazione. Il riferimento dei fatti di Genova, vorrei dire a questi signori professori di informazione, lo dico anche a lei perché anche lei è un professionista di informazione, non approvo nel modo più assoluto che questo personaggio venga additato come Ivan la Bestia. Io non ho mai sentito che i nostri mass media nazionali, eppure ne abbiamo di gaglioffi che girano per gli stati, chiamarli la Bestia, non voglio usare di nome per non fare torto a nessuno. In più non ho mai sentito un nostro giornalista, un nostro opinionista, definire qualcuno che ha messo 300-400 kg di esplosivi sotto un'autostrada, facendo volare per l'aria, ammazzando 5 servitori dello Stato, non so quanti ne ha feriti, definirlo la Bestia, né lui, né chi l'ha comandata, né chi l'ha protetto. Francamente, cosa... Mimmo, però mi scusi. No, un attimo, aspetti, volevo completare. Questa cosa, questo modo di fare informazione rispetto a una persona che è uno straniero, che non si può difendere e che non può attaccare in Italia, io la ritengo una cosa molto molto sì, scorretta. Però Mimmo, adesso francamente che lei si concentri sul fatto che la stampa abbia chiamato questo signore Ivan la Bestia, adesso voglio dire, insomma, no, mi sembra... è una questione di equità, perché certi ho capito, che ma in Italia, d'accordo, qualcuno che ha messo una bomba su un treno la notte di Natale, non l'ho mai sentito definire bestia, come dovrebbe essere definito. Adesso, Mimmo, presunto colpevole, oppure peggio ancora presunto innocente. No, però, politici presi con la mano nel sacco sono innocenti. Ho capito, Mimmo, scusi un attimo. È, il è gravissimo. Ma che gravissimo? Adesso, ma non è affatto grave. Non è affatto grave perché sono delle. Degli aggettivi che vengono affibbiati addosso alle persone, sostantivi eccetera, a seconda dei casi vengono affibbiati addosso alle persone per comodità e poi soprattutto perché in questo caso c'è l'aspetto proprio bestiale di una persona con un suo peso, con quella maglietta col teschio, col passamontagna, armato, che strappa. Lui è contento che l'hanno definito ma così, sì, ma insomma non mi pare il caso di soffermarsi sul fatto che la stampa abbia chiamato questo personaggio Ivan la bestia, insomma. Aveva una bomba tatuata sul petto, insomma, adesso voglio dire, va bene tutto, però adesso difendere questo personaggio perché viene chiamato dalla stampa la bestia mi sembra francamente un po' eccessivo per una questione di equità. Paragonato ad altri protagonisti di nefandezze, insomma, non è che c'è una classifica di come uno può essere chiamato, quello è la bestia, l'altro è il mostro, l'altro è... succede che ogni tanto qualcuno si prenda questi nomignoli addosso o queste classificazioni. Stefano da Brescia, eccomi qua, buonasera. A pochi secondi lei ancora. No, ho sbagliato i minuti. Sbagliati i minuti. Bene, volevo solo dirle che io sono suo abituale ascoltatore. Sì. Da sempre. Sì. Ma sta diventando lei veramente, ha avuto una mutazione. Genetica. Insopportabile. Ma questo è come l'imprenditore di Varese, Parenzo, è come quello della Confindustria. Insopportabile, cosa ha detto? È insopportabile, ha tramutato una trasmissione che era aperta. Al dialogo con gli ascoltatori. Ma sono tre quarti d'ora che parlano gli ascoltatori. Di che sta parlando, Stefano? Lei è mezz'ora che sta dicendo la grande volata con gli ascoltatori e poi. Beh, sono tre quarti d'ora che stanno parlando. Ma parli, che cosa ha da dire? Parli. Che cosa ha da dire? Parli. La sua è diventata una trasmissione che è un vaudeville, una cosa strana, una cosa assolutamente assurda. Dove si ho capito, questo è il suo giudizio, lo prendiamo, ci sono altre persone che la pensano diversamente. Lei ha qualcosa da dire, Stefano, sulle cose del giorno, su quello che vuole, oppure deve semplicemente fare una critica a questa trasmissione? Perché se lei resta al telefono per dire questa cosa qui, forse se lo poteva risparmiare. Bastava fa schifo, lei fa schifo. Io faccio schifo, benissimo, d'accordo, io faccio schifo. Questo è un grande giudizio, pensato, meditato, eccetera. Le faccio i complimenti, Stefano. Io come, scusi? La sento male, dove si trova? In mezzo a una persona è uscire di strada, talmente fa incazzare tante volte. Sta dice di quelle cose che non ha né capo né coda. Ecco, per esempio, vi faccio un esempio. Lei ad esempio la Costituzione italiana non la conosce. Non la conosco. Ah, adesso lei passa dalla trasmissione alla Costituzione italiana. Benissimo. Allora, andiamo alla Costituzione italiana. Non la conosco. Per esempio, dei giudizi apodittici che dimostrano che lei ignora completamente la Costituzione. Ma di che sta parlando? Per esempio, di cosa? Mi faccia un esempio. Io ignoro la Costituzione italiana. Mi faccia un esempio. Ma per carità. Ho capito, ma in questo non c'è dialogo. Mi dica una cosa, mi dica mi faccia un esempio, mi dica dov'è che non conosco la Costituzione italiana. Comunque è vero, sì, non le so recitare tutti gli articoli della Costituzione italiana. Cioè, no. Ma per carità, questo è questo modo continuamente di tenere. È mezz'ora che sta parlando con un signore e va a mangiare le orecchiette. Chi se ne frega? Ma se lei non è interessato, ma spenga la radio, ma cosa vuole che le dica? Ma perché ci ha chiamato allora? Ma mi fa impressione questa. Ma lei si diverte come un matto, questa è la realtà. Lei si diverte come un matto, solo che non mi vuole... è dato proprio niente. Lei per fare... Io, il signore di Varese, ha perfettamente ragione. Ha sbagliato solo a dire che scriveva, non so a chi. Io scriverò al suo direttore dicendo: Scriva. Siamo qui a aspettare. Scriva a curare, porco Giuda. Come? No, se vuole può anche bestemmiare, cioè, dato che c'è bisogno, dico, di andare a curarsi un momento, perché lei è... Non ho capito, ma dove si trova? In mezzo in una piscina? Dove si trova? No, io mi trovo in un parcheggio perché non posso arrabbiarmi e guidare. No, per carità. Ma lei non si dovrebbe arrabbiare, mi sembra che l'abbia preso un po' troppo a male. Stefano, scusi un attimo, lei dice, io prima ha detto io faccio schifo, adesso che cosa ha detto? Mi devo andare a curare, quello è, adesso chiederò. Adesso perché lei sta facendo deviare una bella... Guardi che lei è in linea per più di 2 ore, eh? Più di 2 ore continua a fare pettegolezzi con 4 amichette. tutte cose canzonette, non canzonette, cioè, beh, una volta queste cose qui non c'erano nella sua, sì, trasmissione, lei apriva il discorso e c'era un confronto tra opinioni diverse. Ma lei se ha un'opinione da dire su qualche argomento la dica e ci confrontiamo, lei non ha niente da dire, perché chiunque la contraddica, sì, immediatamente viene da lei. Ma dica qualcosa, lei ha detto non conosce la Costituzione, questa è l'unica cosa che ha saputo dire, Stefano, si rende conto? Fa, perché tutte, qualunque le risposta che lei dà, quando si arriva su, lei dimostra di non essere a conoscenza della Costituzione. Benissimo, questa è la grande riflessione di Stefano da Brescia, noi la ringraziamo molto per questa cosa, riprenda tranquillamente a guidare, perché non è il caso di prendersela troppo, ci sono cose ben più gravi, ci sentiamo lunedì, anzi no, domani venerdì, ciao Parenzo! Sì, ciao! Ciao, ciao, ciao. Mirko da Milano, Ernesto da Padova, Massimiliano da Piacenza, ci sentiamo domani 18:30. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.